Che grande differenza c'è tra innamorarsi e amare. La prima un ascensore, la seconda sono scale. Si ripetono un po' come l'acqua nelle fontane, ma ti fan sentire libero come l'acqua nel mare. La prima in un secondo, la seconda serve tempo. La prima è un bel ricordo, la seconda chiede impegno. La prima ti fa scemo e la seconda ti fa saggio. Entrambe possono finire, tu devi accettarlo. Ora che la TV mi parla di un femminicidio nuovo, io dentro di me provo vergogna essere uomo. Però che cos'è l'odio? Una conseguenza forse, il bisogno di provare lo stesso qualcosa di forte. Per me l'amore è chiave, non sarà mai un lucchetto. Non c'è un filo spinato che potrà tenere il vento. Che se una persona vuole che ti chiudi dentro, è manipolazione, non è senso del rispetto. Voglio far come dice Frida Kahlo d'ora in poi. Ama te stesso, poi la vita, poi chi vuoi. Che grande differenza c'è tra innamorarsi e amare. La prima è un ascensore, la seconda sono scale. Io non lo so, indietro ci tornerei, ma non si può. Fingo che sia tutto ok, sto capo. Ho fatto qualche cazzata, amarti non lo è mai stata, mai no, mai no. Non so chi ha creato il mondo, ma so che ero innamorato.